versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 34 secondi in questo giovedì 17 dicembre. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 e grazie per l'ascolto in diretta o in podcast. L'indirizzo ve lo ricordo sempre perché, ripeto, in questi giorni mi state scrivendo in tantissimi, io sto rispondendo a tutti, oggi mi sono messo in regola con quelli con cui non avevo risposto. Se avete dei dubbi, no, non solo per le solite cose, cioè se volete criticare, proporre puntate, argomenti per la trasmissione, però sia io che Sebastiano Barisoni, che Deborah Rosciani, insomma tutti quelli di Radio 24 che credono di fare giustamente servizio pubblico, vista l'emergenza che molti di voi sentono per i temi del risparmio, della tutela dei vostri investimenti in banca dopo la risoluzione delle quattro banche. Se avete domande da farci, quali noi siamo in grado di rispondere, rispondiamo tutti. Quindi io mi sono messo in regola stamattina con l'arretrato di chi mi chiedeva su questo dei particolari, naturalmente anche con la giusta cautela, che se poi ci fate quesiti tecnici e non basta quello che noi sappiamo conoscendo le norme e la direttiva, vi giriamo anche pareri di esperti del gruppo Sole 24 Ore. Quindi se avete dei dubbi scriveteci, noi siamo qua anche per tentare o di farvi passare la paura o di rispondere a una giustificata paura. In alcune banche la paura è giustificata, per consigliarvi eventualmente come sentirvi più sicuri cambiando o prodotti o addirittura anche banca, naturalmente. Allora, il tema della giornata, per chiedervi se volete intervenire, è una puntata che riguarda apparentemente soprattutto i pugliesi, perché parliamo di una società di trasporto ferroviario locale che si chiama Ferrovie del Sud-Est, che è integralmente pubblica, che esiste dagli anni 30 per così dire, anzi non per così dire ma per storia, che ha una lunga storia di una gestione non proprio efficiente, come vedremo, e avremo con noi il presidente del CDA per tentare di capire da lui come si può in queste condizioni migliorare il conto economico, migliorare la qualità del servizio. Quindi a tutti voi in ascolto dalla Puglia, se avete una qualunque osservazione da fare sul servizio che Ferrovie del Sud-Est garantisce, 474 chilometri da Bari a Gagliano del Capo in 85 comuni pugliesi, è la rete ferroviaria regionale più estesa di tutta Italia, è il momento giusto per telefonarci e intervenire all'800 24 00 24. Però, a dirvi la verità, oggi questo tema, che è venuto alla nostra attenzione perché qualche giorno fa un quotidiano nazionale ha dedicato una pagina ai numeri che non tornano di Ferrovie del Nord-Est e quindi allo sforzo che devono fare adesso gli amministratori per rimetterle in piedi, in regola, questi conti. Questo tema è anche, sia pur casualmente, di attualità. Perché? Perché nel frattempo, mentre vi sto parlando, è in corso una conferenza stampa che vedrete domani avere un certo spazio su tutti i giornali italiani, in cui si annuncia il primo piano industriale di Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti ha modificato ultimamente il suo statuto e soprattutto il suo vertice, quindi c'è un nuovo presidente, un nuovo amministratore delegato, Costa Magna, e il presidente Fabio Galli, l'ex amministratore delegato BNL, è stato nominato da Renzi con forte volontà che questo duo alla testa di Cassa Depositi e Prestiti desse una svolta, e Cassa Depositi e Prestiti ha sempre detto Renzi, e da oggi inizia a essere vero, torna a essere il grande braccio operativo di investimenti e politica industriale dello Stato. E in questo piano industriale, che troverete spiegato meglio nei dettagli e che oggi non commento perché la conferenza stampa è in corso e io stesso devo capirne meglio, ma comunque vedrete numeri molto molto molto rilevanti annunciati nel piano industriale, addirittura 160 miliardi di risorse messe al servizio della crescita italiana. Molti di questi vengono dal piano Juncker, che è tutto da vedere poi come, se e quando partirà e con che efficienza, però insomma 23 miliardi sulle infrastrutture nei prossimi anni di diverso tipo, non solo fisiche ma anche materiali. C'è il problema del digital gap e vedere se entreranno in metro web oppure no, ma comunque vedrete, sono numeri molto molto molto molto rilevanti in questa crescita italiana che è un po' asfittica, in cui non ripartono gli investimenti. Si torna, io lo chiamo un iribis, ma naturalmente è la la mia maniera da antistatalista di diffidare di questo strumento pubblico. Vedremo, poi speriamo che le lezioni imparate dal passato, visto che abbiamo dovuto liquidarla l'IRI sotto il peso immane dei suoi debiti e delle sue inefficienze, con la guida di uomini che vengono dal privato, non ricaschi sotto le stesse difetti, perché quando i capitali sono allocati su indicazioni della politica, beh, lo sapete che i criteri politici prevalgono molto spesso nella storia sul ritorno economico, l'efficienza, gli standard di servizio di qualità da garantire ai passeggeri, per il tema di cui parliamo oggi, ma insomma in generale a coloro che poi si servono, sono i clienti, no, dei servizi pubblici. Io ho questo dubbio per la testa, però vedremo, non voglio bocciare prima di vedere i fatti. Ma allora, dico, per caso o per necessità, intanto tentiamo di capire come si risolve il problema di una società in condizioni, devo dire, insomma, molto, molto, molto degradate nel suo bilancio economico. Allora, io prima di presentarvi adesso il presidente, vi ricordo che le Ferrovie del Sud Est sono una società interamente del Ministero delle Infrastrutture, quindi pubblica al 100%. Ha avuto un amministratore unico per 20 anni, dal 25 novembre è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione di cui il nostro ospite oggi è il presidente. In legge di stabilità è stato approvato un emendamento, la legge di stabilità sta andando avanti nel suo esame, ma insomma il governo si è impegnato, quindi la legge di stabilità darà 70 milioni di finanziamento a Ferrovie del Sud-Est. Ed è però una società in disequilibrio economico profondo. Cioè, per dirne una, usa il TFR, cioè l'accantonamento del fine rapporto dei suoi lavoratori, per coprire i costi di gestione ordinaria. Dal 1 gennaio 2016 sarà commissariata, e il titolo dell'articolo di Sergio Rizzo, era lui che mi riferivo, sul Corriere della Sera, che ha riportato l'attenzione nazionale a questa grande azienda di trasporto pubblico, ohimè, compromessa nei suoi numeri di conto economico e patrimoniale. Vi ripeto solo il titolo per dirne un'altra, e poi passo a dare la parola all'ospite. Il titolo del Corriere della Sera era questo: Ferrovie del Sud-Est al disastro, 1300 assunti e 1400 cause, l'azienda pugliese senza soldi, solo un commissario può salvarla, il manager chiamato a risanarla ha gettato la spugna dopo aver esaminato i conti. Questo gettato la spugna era un eccesso giornalistico, per così dire, visto che il presidente è con noi. Io ringrazio appunto Andrea Viero di dedicarci questa mezz'ora di tempo. Buon pomeriggio. Grazie a voi dell'ospitalità, buonasera. Ho commesso qualche errore tecnico nel sintetizzare la storia e le condizioni? No, direi che sostanzialmente il quadro nelle tinte drammatiche è corretto. Come diceva, il 25 di novembre, su decisione dell'azionista unico, che appunto è il Ministero dei Trasporti, che detiene il 100% della società, si è deciso di invertire una rotta ventennale che vedeva un amministratore unico al vertice della società, di nominare un consiglio di amministrazione, stante che di fatto la società non solo aveva una conclamata incapacità di garantire un livello di servizio adeguato, questo sia, basta scorrere i giornali locali e ascoltare i nostri utenti per averne la prova, ma di fatto era diventata totalmente illiquida, non era in grado di pagare né gli stipendi, ma tanto per dirle, i contributi di settembre, ottobre e novembre non erano neppure versati, così come non veniva pagato il gasolio, le assicurazioni e quant'altro. Quindi l'intervento che ci siamo dovuti accollare nei giorni immediatamente successivi, quindi noi ci siamo insediati il 25, è stato quello di fare un po' una ricognizione della situazione. La situazione onestamente si è manifestata al Consiglio di Amministrazione in termini ben più foschi e preoccupanti di quelli che ritenevamo, sia per lo strutturale disequilibrio economico-finanziario, ma anche per una serie di problemi gestionali, che poi alcuni dei quali hanno già avuto anche l'onore e la ribalta delle cronache, per cui pensare di rimettere in sesto una società come questa attraverso un'azione tra virgolette ordinaria, come quella di un consiglio di amministrazione, era impossibile. Inevitabile ricorrere alla presenza di un commissario e a un'iniezione di cospicue risorse. Devo dire che da questo punto di vista la collaborazione anche col Ministero è stata importante, e l'emendamento che è stato fatto alla finanziaria è proprio articolato in modo che l'iniezione di liquidità che è inevitabile si accompagni con le esigenze di risanamento. Questo sarà il compito del commissario. Allora, io tenterò di fare alcune domande per spiegare ai nostri ascoltatori, che magari se non sono pugliesi non capiscono come si possa arrivare in queste condizioni. Però prima premetto una questione: lei non è un dirigente pubblico, un manager pubblico? Sono di formazione universitaria, quindi sì. Insegno management, anche se poi una parte della mia vita l'ho dedicata al management delle pubbliche amministrazioni, e la mia carriera si è svolta all'inizio all'interno di grandi amministrazioni pubbliche. Sono stato direttore generale della regione Friuli Venezia Giulia, sì, Conilli, sì, però... e poi amministratore delegato di società quotate, di società quotate. Privata. Allora, per questo io infatti volevo che lei descrivesse questa sua parabola, perché la domanda che le faccio è un po' questa: visto che lei è cresciuto e ha toccato con mano i problemi, anche la qualità, non dico di no, ma anche i problemi del mondo pubblico, poi è stato in posti privati, insomma, efficienti, devo dire. Sì. Allora, la domanda che le faccio è: per accettare questo incarico, quando l'hanno chiamato, vuol dire che ci crede alla possibilità, no? Ci crede, perché se no non lo accetterebbe. Sì, sì, la vive sì. Come una sfida, immagino. È stata una sfida, poi, però, sicuramente. Però, se noi andiamo a vedere il passato pluridecennale di Ferrovie del Sud-Est e vediamo che cosa contribuisce ai 311 milioni, leggo, di debiti, 170 milioni di sbilancio contabile, sì, di questa azienda, cioè ciò su cui si è interessata anche la magistratura, enormi spese di consulenze di esponenti politici, di manager pubblici che facevano il bello e il cattivo tempo per tanti anni al Ministero delle Infrastrutture, e così via. La domanda che le faccio è: lei è convinto che avrà la forza per ridurre tutto questo a efficienza, trasparenza? Sì. Beh, guardi, devo dire assolutamente sì. Che poi debba essere io come persona o un'altra è un tema tutto da discutere. Quello che però ritengo è che nessun manager che venga dal pubblico, dal privato, e che voglia invertire la rotta in tempi veloci lo poteva fare se non con un provvedimento di commissariamento. Ciò che tendo a sottolineare, e la preoccupazione che ho in queste ore, è che l'intervento di salvataggio fatto dal governo, una volta passata l'emergenza, tra virgolette, non vada in cavalleria, e cioè pagati gli stipendi, gli arretrati e quant'altro. C'è uno sforzo importante da fare. Ma come si sono potute accumulare 1400 cause di lavoro? Ma guardi, e questo è un indicatore di una situazione incancrenita nel tempo. Le cause derivano per lo più da trasferimenti, da gestione commissariale a gestione regionale, ma la cosa che ci deve far riflettere è che per capire che c'erano 1400 cause in atto o fascicoli da esaminare, abbiamo dovuto ricorrere all'esterno, perché questa era un'azienda che non lo sapeva. No, molto del lavoro è svolto da avvocati esterni, e quindi con la dedizione che poi inevitabilmente in alcuni casi studi esterni possono dare. L'elemento, dottor Giannino, il direttore del personale di questa azienda svolgeva la sua attività in telelavoro da Roma. Sì, che è una cosa. Quindi credo che avendo l'azienda 1300 dipendenti, non vorrei che voi pensaste che qualunque norma dotato possa riflettere come un'azienda di 1300 dipendenti, ecco, del settore della logistica, quindi con problematiche contrattuali di organizzazione rilevante, possa essere gestita in telelavoro. Queste sono considerazioni, insomma, che sono le facciamo senza giudicarle, diciamo, si commentano, certo, da sole, per così dirle. No, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Oppure che appunto un'azienda che ha comunque un contenzioso col personale così importante non abbia uno studio legale interno, perché insomma, 1400 fascicoli da gestire insieme a molte altre cose potrebbero far propendere per un'internalizzazione di un servizio o un'organizzazione diversa, insomma. Credo che nel tempo si siano sommati problemi a problemi, e forse anche una certa noncuranza. Chiamiamola come noncuranza. Io voglio riportare solo una vicenda, i giornali locali se ne sono occupati molto, quindi io mi scuso con i pugliesi perché mettiamo il dito nella piaga, però gli altri non ne sanno nulla nel resto d'Italia di che cosa capita in questa non trascurabile, come avrete capito, visto che stiamo parlando di 480 km solo di strada ferrata, in più ci sono anche i servizi di trasporto su gomma. Da... sono 17 milioni di passeggeri, 17 muove milioni buona parte della Puglia. Esattamente. Allora, riepilogo solo una delle tante vicende avvenute a Ferrovie del Sud-Est, è una storia famosa in Puglia, riguarda quella, c'è un'inchiesta ovviamente della magistratura anche su questo, la procura di Bari, sull'acquisto di 52 vagoni, 27 nuovi, 25 ristrutturati. Questa è una storia che va dal 2006 fino al 2012 più o meno. Questi 27 vagoni vengono acquistati dalle Ferrovie del Sud-Est all'epoca da una società polacca, vengono pagati 93 milioni di euro l'uno, con anche un finanziamento concorrente della regione Puglia. Dopodiché si paga nella cifra, ci sono anche 12 milioni di euro di provvigioni sulle vendite che vengono pagati a uno dei tanti consulenti che vengono indagati, collegati alla gestione di quegli anni di Ferrovie del Sud-Est. E che cosa avviene però? Che quando nel 2006 l'azienda compra in Germania 25 carrozze usate, appunto, sono ristrutturate rispetto alle 27 nuove, le compra a 37.500 euro l'una e le rivende a 280.000 euro ai polacchi, da 37.500 a 280.000 euro, che le ristrutturano e poi le rivendono sempre alle Ferrovie del Sud-Est a 900.000 euro l'uno, cioè con un valore che rispetto a quelli di mercato è un multiplo stellare, per così dire. Allora, come una vicenda di questo tipo, che solo a riepilogarla proprio per i multipli rispetto al valore di mercato è una cosa eclatante che si commenta da sola, però è avvenuta ed è andata avanti anni. In quel caso la domanda che le faccio è, senza farci nomi e cognomi, senza troppo esporsi, ma quanti elementi concorrenti diversi di vigilanza tenevano gli occhi chiusi su una storia di questo tipo che va avanti per anni e che coinvolge l'azienda, consulenti esterni, un'azienda straniera e prezzi e sovrapprezzi di questo ordine di grandezza? In quel caso quanti organi di vigilanza hanno tenuto gli occhi chiusi? Guardi, in tutta onestà le devo dire che nelle tre settimane di lavoro ovviamente di questa cosa non mi sono occupato, anche perché è all'attenzione della magistratura. Potrei dire una cosa banale: evidentemente qualcosa nel sistema dei controlli non ha funzionato. Credo anche che per l'assetto che aveva allora l'azienda, e cioè un amministratore unico, per l'organizzazione stessa che aveva l'azienda, per cui parte delle attività erano svolte a Bari, parte a Roma, l'attività di controllo non c'era, insomma, non c'era. E se non c'era era sulla carta. Alcuni organi hanno tentato. Questo aspetta a me dirlo, l'amministratore delegato in quel caso era Luigi Fiorillo, che infatti rischia il processo perché la procura di Bari ci ha aperto un fascicolo. Allora torniamo tra un minuto, abbiamo l'informazione appunto sul traffico stradale e poi torniamo tra un minuto con il presidente commissario del CDA delle Ferrovie del Sud-Est, a cui stiamo dedicando la puntata. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:49 primi, 59 secondi. Stiamo parlando delle Ferrovie del Sud-Est, una grande azienda di trasporto pubblico, integralmente 100% il Ministero delle Infrastrutture, soprattutto ferrovie ma anche su strada, che è in condizione di disastro assoluto. E il governo ha chiamato un presidente, gli dà un CDA all'azienda, non un amministratore unico. Ci vuole un commissariamento, perché altrimenti con l'amministrazione ordinaria non si riuscirebbe a metterla in piedi. Perdite, debiti, gestione che definire allegre poco. Vi dico solo che questo, uno dei legali dall'esterno che gestiva i fascicoli di questi 1400 processi, non incardinati nella società ma tutti a consulenti e professionisti fuori, e l'avvocato Angelo Schiano, 65 anni, romani, che si è beccato intanto una condanna con 2 anni di rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta sul Madoff dei Parioli a Roma, e solo per questo avvocato la Ferrovie del Sud-Est, fece una transazione professionale agli anni alle nostre spalle di 10 milioni di euro che gli garantiva come minimo 500 mila euro l'anno, e ancora a dicembre 2014 gli ha pagato parcelle per 2.371.829 euro, e così che poi si accumulano i debiti, eh? Allora, detto tutto questo, sentiamo rapidamente qualcuno degli ascoltatori che ci sta chiamando, così diamo al presidente commissario un po' anche il sentire, per così dire, dei viaggiatori e dei pugliesi. Valerio da Lecce, prego Valerio. Buonasera, io ho chiamato semplicemente per fare una segnalazione, già che c'era il presidente di Ferrovie Sud-Est. Sì. Una difficoltà che vivono quotidianamente i lavoratori che sono costretti a spostarsi tra le diverse province pugliesi. Io in particolare sono costretto ad affrontare quotidianamente la tratta da Lecce a Taranto, e non esiste un treno che consente di affrontare, diciamo, questa tratta in tempi ragionevoli. E poi un'altra segnalazione. Quindi ci dice quanto ci mette ogni giorno tra andare e tornare? No, guardi, credo che il treno che collega Lecce-Taranto non esista proprio. Faccio ogni giorno quasi 300 chilometri perché devo passare da Brindisi, le faccio con la macchina ecco, per va. Coprire una distanza che in linea d'aria sono 90 chilometri. Col mezzo privato, ho capito. E sentiremo, qui c'è prima da riordinare e mettere solidità nel conto economico patrimoniale, però presidente, il problema, c'è anche una questione di sviluppo e rafforzamento dei servizi, come si fa con i conti che avete? Ma guardi, sono adesso a Brindisi anch'io perché oggi ho preso il treno, sto girando un po' le nostre linee, ho fatto la tratta oggi Lecce, Maglie Otranto, poi la nostra società oltre a gestire le ferrovie gestisce anche il trasporto su gomma. Allora guardi, in queste ore come può ben immaginare anche il nostro mancato utente a questo punto l'emergenza è stata quella, molto banalmente, di pagare il gasolio, di pagare le assicurazioni e gli arretrati. Il livello di servizio onestamente ne risente moltissimo, al di là di armamento, che tutto sommato è un armamento che, quindi per intenderci le strade ferrate, sì, garantisce un buon livello di qualità e di sicurezza. Il vero tema sono poi i mezzi, gli autobus. Abbiamo alcuni autobus che addirittura hanno ancora 27 anni e ha già dei famosi treni ETR, alcuni dei quali poi non sono mai entrati in esercizio per una serie di problemi, è il materiale rotabile. Vedevo oggi al nostro deposito di Lecce, abbiamo delle straordinarie mezzi ancora delle Reggiane del 1959. Delle Reggiane, quindi stiamo parlando dei veri reperti di archeologia industriale, bellissimi, ma archeologia industriale. E devo dire che sono ancora tenute in efficienza dal lavoro del personale, che in officina riesce a fare miracoli. Credo che il lavoro che dovrà svolgere poi il commissario inevitabilmente abbia dei tempi che in parte già sono definiti dalla legge, che è in approvazione, dalla norma che è in approvazione, cioè entro 60 giorni, quindi il commissario si insedia il 1° di gennaio, entro 60 giorni deve presentare un piano di sviluppo della società e un piano industriale e valuti se vi sono le condizioni per rilanciare e per garantire quel futuro e quella. Ma attualmente la percentuale di copertura dei costi da ticketing, biglietti, insomma, di mercato, qual è? Guardi, questa è una società che incassa più o meno 1,5 milioni al mese da ricavi e da tariffazione e che ha un contratto di servizio con la Regione Puglia di circa 130 milioni di euro, quindi che corrispondono più o meno ai costi. Quindi il livello di copertura si aggira intorno al 10% ed è un livello basso, molto basso. Quindi credo che onestamente nel 2016 chi dovrà affrontare questa sfida si dovrà preoccupare di garantire il consolidamento ma anche la normalizzazione della vita societaria e dell'azienda, quindi dei meccanismi normali di gara, di organizzazione interna, di gestione del personale e un miglioramento del materiale rotabile ovviamente e degli automezzi implica investimenti che richiedono anche un periodo un po' più lungo, quindi credo che il 2016 sarà l'anno in cui si riesce si ricomincia a darsi, per così dire, delle regole rispettabili, sì, ordinate di efficienza, sì, a pagare debiti e soprattutto i dipendenti anche. Esatto, e cominciare anche però a garantire un minimo di maggiore puntualità. Io capisco, mi sto muovendo parecchio sulla rete in questi giorni, diciamo che gli orari di partenza, gli orari di arrivo non sono propriamente da ferrovia svizzera, no, quindi ecco, chi deve andare a lavorare o chi deve andare a scuola. Allora, io faccio i miei auguri noi, di tutti noi, alla, per così dire, alla dedizione con cui Andrea Viero si è prestato alla presidenza di questa azienda così scassata. Naturalmente io non ho la certezza che sia tutto così lo Stato, né penso che sia così la maggior parte delle aziende statali, però ricordiamoci che queste sono le prove che abbiamo alle spalle, quindi domani quando parleremo di CDP ricordiamoci che queste sono le belle prove che abbiamo. Naturalmente molti di voi che stanno andando a mettere risparmi in posta diffidando dalle banche, in realtà alimenteranno esattamente la maggior provvista, che vedremo CDP come utilizzerà, perché lo voglio ripetere, CDP non è interessata dall'applicazione del bail-in, molti ce lo chiedono. Continuate con Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani con Alessandro Milan, attenti a noi due.